È con immenso cordoglio che piangiamo la scomparsa di Michele Bravi, un uomo che è stato capace di sopravvivere alle mode, ma mai alle sue canzoni. Perché se è vero che la morte è una tragedia, almeno la sua vita è stata una commedia. Oggi non celebriamo una fine, ma una conclusione logica. Ma tu verrai al mio funerale, vestito di nero, cravatta e gilet? O come ogni volta hai meglio da fare, ma se poi non vieni tu è lutto nazionale. Non resterai sorpreso se tutti piangeranno, me l'hai sempre detto d'altro canto, che se apro bocca faccio piangere la gente, e allora figuriamoci se canto. Ti prego vieni amore o morirò di nuovo, che alla fine lo sapevo non ti manco più nemmeno. Chissà se oggi ci sarai, che ti fa ridere ma già lo sai. Lo sai che non conosco un modo normale per dirti che mi piaci, parlo di un funerale. Vorrei quanto vorrei, io ci morirei, ma guardo un po' che cosa mi hai fatto fare, che ora devo programmarmi tutto il mio funerale. E forse esagerato, ma credimi che non trovavo una strada migliore per dirti che, per dirti che ti amo. E se ci vado piano non so spiegarti che io non so vivere più senza te, senza che mi richiami la notte, senza che mi nascondi le sigarette. Però mi sembra naturale poterti domandare se, chissà se oggi sarai, che ti fa ridere ma già lo sai. Lo sai che non conosco un modo normale per dirti che mi piaci, parlo di un funerale. E vorrei quanto vorrei, per un tuo bacio io ci morirei, ma guardo un po' che cosa mi hai fatto fare, che ora devo programmarmi tutto il mio funerale. Mi sembra che tu stia esagerando.